e andiamo a farci una camminata in giro per l'Europa con un catalogo che è stato proprio presentato qui alla BIT venerdì, ieri, si chiama Cammini d'Europa ed è una sorta di vademecum del camminare per conoscere antiche strade del nostro continente, là dove insomma le radici anche di questa Europa unita nascono, là dove l'Europa per prima si è respirata. Con noi c'è Alessandro Cardinali, presidente dell'associazione Cammini d'Europa. Ciao Alessandro, benvenuto. Buongiorno. Sei a piedi? Sì, sono in piedi, sto camminando. Giustamente, mi sembra il minimo. Allora, Alessandro, spiegaci un po' cosa sono questi cammini d'Europa che voi avete raccolto, raccontato e state proponendo come una forma alternativa di turismo slow, diciamo. Esatto, siamo partiti 15 anni fa mettendo insieme le vie principali europee, il Cammino di Santiago, la Via Francigena, e poi abbiamo pensato che da questo punto di vista ci sono tanti bellissimi itinerari in Italia e anche in Europa che possono essere valorizzati. Quindi abbiamo dato via a questo GEIE, che è un gruppo di azione europeo, che sì, si chiama Cammini d'Europa, e stiamo cercando di valorizzare quelli che sono gli itinerari, i cammini, i territori, direi, interessanti e belli sia dell'Italia che dell'Europa. Adesso ci accompagni a fare un giro per capire anche come camminando si può scoprire l'Europa. E diciamo che è un turismo che nasce probabilmente come turismo religioso, che però ha avuto una sua evoluzione. Nasce come turismo religioso, poi diventa però anche turismo culturale, diventa anche come turismo di valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, dell'artigianato del territorio, diventa cammino come motivo anche di conoscere territori, di incontrare gente, di visitare luoghi anche sperduti che possono essere momenti di pace ma anche momenti di riposo e di tranquillità. La valorizzazione dei vecchi monasteri, la valorizzazione degli ostelli, delle antiche vie, tutto questo si trova camminando per questi itinerari. Ecco, e noi ci intitoliamo L'altra Europa. Camminando per l'Europa si respira, si vede, si vive un'altra Europa, secondo te? Secondo me sì, anche perché noi l'abbiamo visto nel nostro camminare sulla Francigena da Canterbury a Roma, nel nostro camminare sul Cammino di Santiago per tutta la Galizia, la Cantabria, le zone bellissime della Spagna, lo abbiamo visto frequentando la Repubblica Ceca con i suoi cammini, lo abbiamo visto addirittura in Norvegia e in Svezia, dove sono realizzati due stupendi cammini che stanno dando ottimi risultati, e lo vogliamo vedere perché si sta costruendo una rete interessantissima sulla Francigena del Sud e sul Cammino di San Paolo, quindi da Roma alla Puglia, poi a Gerusalemme, oppure dalla Sicilia a Malta e alla Turchia. Questo per dire che tutti stanno riscoprendo questi itinerari, che non dobbiamo mai dimenticare che per chi li camminava non erano itinerari fissi e rigidi, erano io passavo dove meglio mi sembrava giusto passare, io camminavo dove era più giusto camminare, e quindi questo dava l'opportunità, come dicevo prima, di avere una valutazione del territorio e della comunità complessiva. Quindi tramite i cammini penso che si possa vendere la comunità, si possa far conoscere la comunità in tutti i suoi aspetti, da quello religioso a quello culturale a quello delle tradizioni e, come dicevo, anche a quello enogastronomico, perché facendo il Cammino di Santiago per esempio si incontra delle stupende case rurali che ti danno la cena, la colazione con i loro prodotti tipici e ti portano a dormire nelle loro case rurali che sono, certo, diventati il simbolo del cammino. Camminideuropa.eu, se volete vedere un po' di questi itinerari, abbiamo già caricato il link nella nostra pagina in facebook.com/l'altra Europa. Alessandro, prima di salutarci però vorrei tornare su questo cammino di Sankt Olav in Scandinavia, perché è veramente particolare e poco conosciuto. Cioè, si può visitare la Scandinavia a piedi? Sì, si può fare, addirittura nel nostro catalogo che, come hai detto, abbiamo presentato ieri in BIT, che si trova in tutti i partner che noi abbiamo all'interno della BIT anche nei prossimi giorni, abbiamo proprio capito che qua ci sono degli stupendi itinerari legati ai pellegrini, molto legato, devo dire, ai pellegrini rispetto quindi a un turismo molto religioso, però che ci permettono di avere un'idea di visita interessantissima. Posso garantire, perché io sono stato... Cioè, tu li hai fatti questi cammini? Cioè, uno l'ho fatto. Ok, va bene, quindi ci fidiamo. Perché sono più di uno, l'ho fatto insieme al mio segretario e abbiamo passato alcuni punti che c'era neve, ma c'erano anche delle pinete stupende, in scenari altamente stupendi. Sì. Qui mi chiedono, se era tranquillità. Mi chiedono se era il segretario a portare il tuo zaino, no? No, però era lui che spesso mi dava la forza di continuare. Insomma, perché la condivisione è anche questo. Grazie davvero, ricordiamo allora Cammini d'Europa, con noi Alessandro Cardinali, presidente dell'associazione Cammini d'Europa.eu per tutte le informazioni. Ciao Alessandro, buon sabato. Ciao, grazie, saluti a tutti.